want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Il suono della musica di JJ Telesforo. Pronti per il soundcheck di Radio 24, buonasera a tutti voi in contatto da JJ Telesforo e buonasera alla nostra ospite, pianista, cantante, compositrice, ma soprattutto viaggiatrice alla ricerca di suoni, di note, di grandi artisti. Il piacere di presentarvi, proprio perché una settimana fa è stato pubblicato il nuovissimo album della bellissima Chiara Civello. Brava Chiara, e come sono felice di vederti al soundcheck. Grazie JJ, grazie a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere qui e presentare il disco con te, che sei sempre così importante, che ho incontrato tanto tempo fa. Eh sì, perché è vero, la signorina Chiara Civello io l'ho conosciuta credo nei primi anni 80, quando iniziava a muovere i primi passi nell'ambiente musicale romano, lavorando con alcuni fra i più acclamati musicisti di jazz della mia generazione, quindi vi sto parlando di Roberto Gatto, Danilo Rea. Poi improvvisamente decise che era il momento di spiccare il volo, nel vero senso della parola, e ti trasferisti a New York per continuare i tuoi studi di musica. Sono andate più o meno così le cose? Sì, sono andate così. In realtà mi sa che ci incontrammo un po' di tempo fa a San Vito Lo Capo, che tu cantavi, c'erano anche dei seminari, però ecco, non ho una memoria molto chiara, perché poi sono andata prima a Boston a studiare alla Berkeley e poi mi sono trasferita a New York. È un po' un passo che tutti fanno dopo aver un po' raggiunto il massimo degli stimoli bostoniani, no? Però gli anni di Boston sono stati importantissimi, perché ho conosciuto tante persone, e poi in realtà sai meglio di me che nella formazione di una voce artistica così è quasi più importante l'incontro che la scuola e la formazione. Cioè è importante imparare, soprattutto per avere un inventario maggiore di cose da dire, ma è anche importante dimenticare e poi trovarsi dentro. E da lì poi, vabbè, una cosa tira l'altro, un incontro tira l'altro. Ho incontrato Russ Titelman, abbiamo fatto il primo disco, che mi ricordo che tu hai anche apprezzato all'epoca, e mi ha fatto un piacere immenso sapere che ti piaceva. E poi un disco tira l'altro, un incontro tira l'altro, e siamo qui oggi. Eh sì, dopo aver girato tutto il mondo in cerca di musica e di emozioni. Ma parliamo un po' della tua passione per la musica. Tu sei romana, vieni da una famiglia di appassionati di musica, di musicisti o no? Zero, assolutamente no. Mio padre è medico, mia madre è psicoanalista, però... Io sono mezza siciliana e mezza pugliese d'origine, ma ho mia nonna Bianca, che è ancora viva e si chiama Bianca, ha circa 91 anni. Quando io ero molto piccola, lei aveva un pianoforte, mi metteva davanti al pianoforte e mi ha così stranamente insegnato a sviluppare un rapporto comunque con uno strumento, già da età piccolissima. Però oggi, o poco tempo fa, le ho chiesto: nonna, ma come mai mi hai messo davanti al pianoforte così giovane? E lei mi ha raccontato una storia che secondo me è molto bella, poi sono sempre un po' romantica, no? Mi ha raccontato che la sua mamma, cioè la mia bisnonna, nonna Caterina, era una pianista, era una concertista e suonava anche l'arpa. Solo che non le hanno mai fatto fare la carriera, perché doveva occuparsi della famiglia e dei figli. È una cosa che è successa anche a mia nonna. Esatto. Mia nonna, cioè la figlia di questa bisnonna Caterina, anche lei suonava il pianoforte per una questione un po' di educazione, ma allo stesso tempo, secondo me, perché amava la musica, e neanche lei ha potuto farlo. Quindi tutte queste, diciamo, le frustrazioni di due generazioni che non hanno potuto intraprendere la carriera artistica, le ho ereditate io e mi sono catapultata verso il mondo a fare musica. Ecco, con grandissime soddisfazioni, perché dicevamo hai incontrato grandissimi artisti e ne parleremo, hai realizzato i tuoi album anche con etichette e distribuzioni importanti, girato il mondo, hai vissuto a New York, hai vissuto e vivi a Rio de Janeiro, giri in lungo e in largo con la tua musica e le tue band e approdi proprio da una settimana con la pubblicazione di un nuovissimo album intitolato semplicemente Canzoni. E qui ascoltiamo subito, tanto per aprire proprio il discorso sulla nuova produzione, ascoltiamo Chiara Civello e poi ci racconterai di questo nuovo album con un brano che si intitola Incantevole, che non appartiene al patrimonio italiano classico, ma è una composizione recente. Sì, è dei Subsonica. E infatti questo qui è il mio primo disco da interprete, di cui sono molto felice perché credo di aver un po' riversato tutto quello che ho assorbito negli anni, anche attraverso le mie canzoni scritte da me, stilisticamente di aver potuto riversarlo nel repertorio italiano. Un esperimento interessante. Allora, dal repertorio dei Subsonica, questa è la versione di Incantevole by Chiara Civello, oggi ospite del Soundcheck. Chiara Civello, nostra ospite, sono felicissimo di rivedere la bravissima Chiara. Definirti una cantante credo sia riduttivo, anche se questo è un album dove hai interpretato canzoni. L'album si intitola Canzoni e questa era infatti la versione di Incantevole, brano scritto tratto dal repertorio di Subsonica per la voce di Chiara Civello. Allora, come nasce l'idea di un brano, di un disco, un album da interprete e come mai l'hai intitolato Canzoni? Allora, in realtà è nato proprio da un bisogno interiore dopo 4 dischi da cantautrice, da compositrice, come ti dicevo prima. C'è stato un momento in cui io mi sono fermata un attimo e ho detto: io voglio poter interpretare le canzoni che amo, che non ho scritto, di quelle che avrei voluto scrivere io, e voglio dedicare questo lavoro anche un po' di ricerca, un po' di suoni al repertorio italiano, che è sempre stato conosciuto all'estero ma forse in una patina un po' melodrammatica. Quindi mi sono avvalsa dell'aiuto di un produttore artistico che adoro tantissimo, che è Nicola Conte, e siamo entrati in una missione restituire un po' all'Italia questo repertorio con un sound internazionale che si riferisce un po' ai nostri grandi idoli, Dusty Springfield, il Blue Eyed Soul, il Northern Soul, un po' di Bossa Nova. E ci siamo fatti ovviamente aiutare dal grandissimo Eumir Deodato negli arrangiamenti d'archi, e quindi è venuto fuori un esperimento che secondo me alla fine mi ha riempito il cuore, perché la missione secondo me è compiuta. Ottimo, e ne parleremo. Ti piace Cassandra Wilson? Moltissimo. Allora, andiamo a Cassandra Wilson, da un album del 2006, si intitola Thunderbird, il brano Closer to You è una composizione di Jacob Dylan, figlio di cotanto padre. Eccola qui Cassandra Wilson al Soundcheck. How soft a whisper can get when you're walking through a crowded space. I hear every word that you say. I remember that every day I get a little bit closer to you. Soundcheck, il suono della musica. Chiara Civello, ospite del Soundcheck, sono contentissimo di ritrovare una bravissima autrice, una compositrice, una cantante, un eccellente pianista che si diverte ormai da tanti anni con la musica e, lo abbiamo detto, gira il mondo portando con sé un bel bagaglio culturale. Viene dal jazz, lo ha amato, lo ha apprezzato, lo ha cantato, per poi scoprire una vena compositiva non indifferente che ti ha portato anche a scrivere canzoni per altri, a collaborare a quattro mani per esempio con un mostro sacro come Burt Bacharach. Che emozione si prova a lavorare con personaggi così? Indescrivibile, quello, come ti dicevo, ritornando al tema degli incontri, no? Quelli sono veramente le cose che che ti cambiano la vita. Io ho incontrato il produttore che mi ha aperto gli occhi sull'aspetto compositivo di una carriera artistica, che era fondamentale, e Bacharach mi ha aperto veramente gli occhi sulla composizione, perché scrivere una cosa insieme vuol dire portarsi dentro per tutte le prossime canzoni quell'esperienza. Quindi oggi quando io scrivo un pezzo penso moltissimo a quell'esperienza, cioè me lo porto dentro nel mio istinto anche compositivo. È stato meraviglioso, a parte che ancora siamo in contatto e mi ha insegnato un sacco di cose Bacharach, che poi sai, scrivere con lui al primo disco è una specie di battesimo infinito. Ecco, stiamo parlando di un disco intitolato Last Quarter Moon, un album di che anno è questo album? 2005. Del 2005, è praticamente arrivato dopo un percorso fatto, come dicevi, alla Berklee School of Music a Boston. Quali sono stati i tuoi insegnanti e che cosa hai imparato alla Berklee? Allora, gli anni, io poi sono abbastanza eclettica, nel senso che vado un po' a febbri, no? Allora, nel tempo in cui io frequentavo la Berklee ero assolutamente malata di improvvisazione, volevo assolutamente imparare lo scat, ma un po' è una cosa che tu fai benissimo, per esempio, che però a volte è un po' come si dice, deceiving come tipo di stile di improvvisazione vocale, perché molti cantanti lo fanno senza rendersi conto esattamente delle note dentro un accordo, cioè in maniera impulsiva, e quindi spesso fanno degli errori. Ma l'improvvisazione vera per noi cantanti che non abbiamo bottoni da premere nel sassofono o nel pianoforte è un esercizio mnemonico di ear training molto grande. Quindi quella era la mia ossessione. Quindi trascrivevo cosa che io non ho ancora superato. Allora io trascrivevo le sue cose che tu farai tutti i giorni, trascrivevo Charlie Parker, Miles Davis. Già fatto. E quindi fai tutto a orecchio. Che per in un certo senso studiare, comprendere la relazione tra le note e gli accordi, che in realtà l'improvvisazione nel jazz sembra una cosa libera, spontanea, una vomita, ma non è così, è comunque quello che dovrebbero fare tutti i cantanti a prescindere dal genere, no? Conoscere la musica è alla base, credo. Sì, secondo me anche per poi affinare l'istinto, perché se tu ti vuoi tuffare in una piscina da un'altezza enorme, tu devi prima tuffarti da altre altezze, devi comprendere com'è il tuo baricentro, come ti muovi. La stessa cosa è l'improvvisazione, non è che uno prende e si tuffa senza poi sapere cosa dire esattamente. Secondo me si chiama improvvisazione, ma viene da un certo tipo di analisi individuale dei propri limiti, delle proprie capacità. E quindi quella era la mia ossessione a Berklee. I miei maestri erano Jerry Bergonzi, George Garzon, Hal Crook, cioè trombonista, sassofonista. Musicisti di prima grandezza. Allora, facciamo una pausa e poi continuiamo con le chiacchiere, perché a questo punto mi è venuta voglia di ascoltare il brano di apertura di questo primo album pubblicato, come dicevi, ormai più di una decina di anni fa, e tra l'altro album che allora vide per la prima volta un'italiana sotto contratto con la Verve, quindi un grande successo, fu una grande soddisfazione per tutti noi. Quindi Chiara Civello, il brano si intitola Here Is Everything, giusto? Yes. Here is Everything, la voce di Chiara Civello da Last Quarter Moon, album di molti anni fa, il primo album per Chiara Civello, album per la Verve, lo dicevo, fu una soddisfazione per tutti noi musicisti italiani vedere che finalmente c'era un nome italiano romano sulla copertina di un album della Verve. E tra l'altro è stato un album molto fortunato, che ha portato la tua carriera in alto, ti ha fatto girare il mondo, ti ha fatto fare una bella tournée. E io ricordo che dopo aver presentato in altre rubriche radiofoniche questo album, venni anche a trovarti all'Auditorium Parco della Musica per il tuo primo concerto italiano con la band americana. Sì, mi ricordo che presentasti tu il concerto, non me lo dimenticherò mai. Per amicizia si fanno queste cose. Sì. Allora Chiara, va bene, poi hai girato il mondo, ti sei trasferita da che ne so, che cosa avevi, un appartamentino in affitto alla Berklee, ma ti sei spostata a New York. Cosa successe a New York? A New York succede che la movida newyorkese ti rapisce, cominci a girare per locali, conoscere persone, quindi è sempre la solita teoria della vita che è l'arte dell'incontro. E, ho incontrato il produttore del primo disco, che mi ha fatto anche fare il contratto con Verve, Russ Titelman. Da lì tantissime collaborazioni, James Taylor, Tony Bennett, il primo disco, poi un secondo disco. Alla fine del secondo disco ero in mezzo alla tournée, scopro, comincio a collaborare con il Brasile, in pianta più stabile. Allora, facciamo una piccola pausa e poi ci racconterai la tua esperienza brasiliana, e quindi cambiamo anche il percorso sonoro che ti riguarda, però chiudiamo quest'altra sezione del nostro soundcheck con un artista della Blue Note, un pianista cantante, ma soprattutto un compositore non così jazz, ma molto sensibile. Si chiama Ben Montench, lo abbiamo già presentato qui al soundcheck, il brano è il brano col quale chiude questa nuova produzione per Blue Notes, intitola Why Don't You Quit Leaving Me Alone. Eccolo qui, Ben Montench al soundcheck. Surely you remember this old resort hotel. It's pink and white all over and historical as hell. Scott and Zelda stayed here, and you and me as well. At least that's how the story goes. The porters like to tell. Soundcheck. Il suono della musica. Sei mia, sei mia, sei mia. Senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, sei mio, sei mio. Ebbene sì, gli appassionati di musica avranno riconosciuto una melodia immortale scritta da Pino Donaggio tantissimi anni fa, Io che non vivo senza te. E probabilmente avrete riconosciuto la voce di Chiara Civello, infatti il brano è tratto da questa nuova esperienza discografica intitolata Canzoni, che vede la collaborazione di vari artisti. E in questo standard tutto italiano c'è la partecipazione di un veterano che ha creato la musica popolare brasiliana, ovvero il meraviglioso Gilberto Gil. E qui entriamo proprio nel mondo brasiliano di Chiara Civello, che frequenta Rio de Janeiro, il Brasile, ormai da diversi anni. Allora, che cosa hai imparato da New York e invece che cosa ti ha regalato il Brasile negli ultimi anni? Beh, New York, come saprai anche tu, è una città che comunque è un invito alla libertà assoluta, libertà di sperimentazioni musicali, c'è tutto. Scendi, vuoi sentire del soul ad hoc, perfetto, lo senti, vuoi sentire del jazz, vuoi sentire del cantautorato d'eccezione. E, comunque è una città che è abbastanza spietata, nel senso che ti lascia anche dei momenti di grande solitudine, e se ti vuoi perdere ti puoi perdere, ma ti accoglie sempre a braccia aperte. Io già da tanto tempo, da quando vivevo a Boston, mi ero appassionata follemente per la musica brasiliana. Ti parlo però di quelli che erano stati esportati: Jobim, Chico Buarque, Djavan, Milton Nascimento. Era un linguaggio, una musica che io ritenevo veramente sublime, cioè un po' la sublimazione degli elementi di una canzone, no? Ritmo, perché c'è l'Africa, armonie sorprendenti, Jobim, melodie incredibili, e anche testi, se pensi a Chico Buarque, meravigliosi. Quindi in qualche modo con i testi anche un po' più vicino alle tematiche italiane dei grandi autori. Esatto, e poi non dimentichiamoci che è dagli anni 50, insomma, che Italia e Brasile hanno questo ponte solido, creativo, di parcerias, di collaborazioni super di grande fermento, grazie a Sergio Bardotti qui in Italia, grazie a Nelson Motta lì in Brasile, no? Quindi, insomma, appassionata di questa cosa, mentre la mia febbre jazz continuava, io vado, faccio un viaggio di piacere per andare a trovare Daniel Jobim, mio amico nonché nipote di Jobim. Bravissimo pianista. Vado, vado a una festa dove tutti suonano, si passano la chitarra, cantano una canzone e conosco una marea di artisti e cantanti che mi dicono: fermati, scriviamo insieme. Da lì una cosa tira l'altra, come diceva Vinicius, a vida e arte do incontro, la vita è l'arte dell'incontro. Ho cominciato a scrivere delle canzoni, ho vinto insieme ai miei amici compositori Dudu Falcão e Anna Carolina il premio Multishow come miglior canzone. Abbiamo vinto, interpretata da Anna, che io poi ho reinterpretato in italiano, con problemi, e quindi ho cominciato a vivere veramente il mondo musicale del Brasile. Il Brasile cosa mi ha insegnato? L'arte della gioia, l'arte della spensieratezza, l'arte della collaborazione spensierata, senza tenersi attaccati ad un'idea, ma mettendola in mezzo, perché poi la produzione si triplica, si quadruplica. Con tua sorpresa e grande beneficio. E quindi chiudi casa a New York City e ti sposti in Brasile. Allora noi facciamo una pausa, fra pochissimo arrivano le notizie di Radio 24 e facciamo una pausa con una composizione, più che altro un groove portentoso scritto dal meraviglioso Donny Hathaway nella versione più recente di George Benson. Facciamo una pausa con la musica di George Benson e The Ghetto, poi arrivano le notizie di Radio 24 e poi di nuovo per il soundcheck con la nostra bellissima Chiara Cibello. Yes, this is the ghetto. Mi. Soundcheck, il suono della musica. Sì, ci scappa lo swing ogni tanto. Sing, sing, sing, il cavallo di battaglia di Luis Prima nella versione della bravissima Anita O'Day. Siamo tutti portati a ricordare, quando si parla di swing vocalist come Sarah Vaughan o Ella Fitzgerald, ma dimentichiamo che c'era una signora bianca bravissima chiamata Anita O'Day, che apre la seconda parte del nostro soundcheck qui su Radio 24 con Gegé Telesforo e special guest. Oggi sono felicissimo di ritrovarla in grandissima forma con la sua voce e anche un aspetto molto brasileiro, la bellissima Chiara Civello. Sul serio, sono felicissimo di vederti. Allora, abbiamo raccontato la tua storia americana: alla Berkeley hai studiato, a New York ti sei divertita, hai appreso la dura legge della musica e dei musicisti andando in giro per club e clubacci, hai iniziato a scrivere musica a Prodi, alla Verve, e poi a un certo punto per diletto ti sposti in Brasile, a Rio de Janeiro, dove conosci una bella combriccola di musicisti che ti hanno stimolata, e quindi alla fine hai chiuso casa a New York e ti sei trasferita in Brasile. Allora, il Brasile è un punto di riferimento per la musica ormai da tanto tempo, ma nella tua vita quanto è importante? Tantissimo, perché come ti dicevo mi ha insegnato un altro approccio alla musica, un altro approccio alla composizione, una giovialità nel vivere tutte le fasi che hanno a che fare con la vita musicale, dalla composizione all'esibizione, alle attese, con un altro spirito. E in Italia ho sempre notato nelle mie piccole corte permanenze che ogni tanto ci si prende un po' troppo sul serio, c'è meno senso dell'umorismo, meno spirito di compartigliamento, come dicono i brasiliani, di condivisione, soprattutto insomma dopo aver appreso veramente quanto è bello poter comporre insieme, poter mettere in mezzo le idee e creare qualcosa di bello senza esserne troppo attaccati. E ho un po' preso il vizio, quindi un po' mi aspetterei che succedesse anche con delle collaborazioni italiane. Sta cominciando, devo dire, a succedere adesso che sto un po' più qui, però ecco, il Brasile mi ha dato tanto ed è un paese che mi sta a cuore, c'è un pubblico che mi aspetta, c'è un pubblico che mi segue, dei fan club bellissimi. E poi la cosa che ho notato è che il Brasile si vive la musica in un altro modo rispetto a noi, anche il Nord America se la vive in un altro modo, cioè tu senti che la musica è dentro la loro quotidianità. Com'è il Brasile in questo momento? Fra un po' ci saranno i mondiali, si stanno organizzando, so che la gente in qualche modo protesta perché sono stati spesi tanti soldi che invece potevano essere utilizzati in maniera forse più intelligente, anche se il Brasile adesso ha un'esposizione internazionale. Come l'hanno presa i tuoi amici artisti? Ma guarda, alcuni so che partono, vanno via. Ah, lasciano il Brasile alcuni... per il periodo dei mondiali. Sì, vanno in vacanza, colgono l'occasione perché ci sarà veramente un'invasione di persone. Altri invece rimangono e partecipano. Allora, un altro brano bellissimo scritto da Chiara, questo da un album del 2007, album sempre distribuzione Universal, si intitola The Space Between, album bellissimo, anche questo realizzato con ottimi musicisti americani. Il brano, una composizione, non voglio neanche fare commenti, basta ascoltarla. If You Ever Think of Me, un brano di Chiara Civello al Soundcheck. Spring isn't shy here, it's sunny and green, back to the room between, somewhere, nowhere, I love to be. So I lay down and Soundcheck. Il suono della musica. Nuovo album per Chiara Civello, nostra ospite al Soundcheck. L'album nuovissimo si intitola Canzoni, collabora artisticamente per la produzione con il nostro Nicola Conte, anche lui è un nome italiano noto in un certo ambiente musicale a livello internazionale e continua a divertirsi anche come producer, e lo ha fatto con te. Che cosa ha portato Nicola Conte nella tua musica? Ma sicuramente un sound incredibile, proprio un sound che è come se mi fosse stato cucito addosso. Nicola, sai, si avvale di un grandissimo fonico che è Tommy Cavalieri, che ha il suo studio a Bari ed è uno studio interamente analogico, con dei preamplificatori, non so, che ci sono da Abbey Road, delle cose, e una captazione del suono incredibile, praticamente con la vividità e la profondità dell'analogico. Nicola e Tommy hanno creato una sonorità intorno alla mia voce che veramente mi ha commossa dal primo all'ultimo secondo di mia esecuzione canora. Quindi devo dire che lui ha fatto un esercizio molto importante di immaginazione nel momento in cui io sceglievo il repertorio, dal repertorio italiano, le canzoni che mi piaceva cantare, e cercava di visualizzarle come in che modo ci saremmo potuti spingere, quanto potevamo spingerci oltre per internazionalizzare un po' il sound sulla base dei nostri grandi idoli come Dusty Springfield o come, non so, Nancy Wilson, anni 70, e quindi siamo riusciti a creare insieme una sonorità che strizza l'occhio al passato ma che poi riflette un po' la sonorità di oggi, nonostante sia poi analogico, con la batteria molto avanti, con un sound abbastanza accattivante. Questo è stato lavorare con Nicola, oltre a appunto riuscire a ricantare questi pezzi con un respiro veramente personale. Ecco, e lo hai fatto in alcune canzoni affiancando degli special guest veramente speciali, e fra questi anche una cantante, compositrice, eccellente bassista, vincitrice del Grammy Award, oggi una stella di prima grandezza del jazz e della musica contemporanea internazionale, che è Speranza Spalding. Quindi la base operativa era questo studio a Bari, poi però vi siete spostati in giro per il mondo per registrare le partecipazioni. Sì, abbiamo fatto è stato un disco, diciamo, in tre fasi. La prima fase degli arrangiamenti con la band che Nicola ha messo insieme, con dei musicisti incredibili. La seconda fase è la fase di Praga, dell'orchestra sinfonica e degli arrangiamenti meravigliosi di Omir Deodato, che sai, l'arrangiatore di Sinatra, Jobim, di Roberta Fleck e di Bjork. Era che calzava perfettamente per la nostra intenzione di rendere questi brani così internazionali. E la quarta e la terza fase è la fase dei duetti, in cui io ho proposto a degli artisti che ammiravo, che apprezzo e a cui voglio bene, di duettare con me per consolidare questo tributo alla musica italiana. Ho chiesto a Gilles e a Chico e loro veramente con entusiasmo hanno accettato. Ecco, Gilles, sono Gilberto Gil e Chico Buarque di Hollanda, che ne parliamo dopo, visto che adesso ascoltiamo prima il duetto con Esperanza Spalding, che forse conosci dal periodo della Berkeley o no? Lei è più giovane. Sì, la conosco esattamente dal periodo della Berkeley. Poi quando vivevamo entrambe a New York, nelle pause da un tour all'altro ogni tanto ci incontravamo, e lei mi ricordo che mi introdusse alla musica di Minnie Riperton, e io le feci sentire per la prima volta la versione di Dusty Springfield di The Windmills of Your Mind, che è poi il brano che ascoltiamo adesso, però nella edizione italiana, anglo-italiana, perché Esperanza invece canta il testo in inglese di questa composizione di Michel Legrand. In italiano è I mulini dei ricordi. Chiara Civello al soundcheck con Esperanza Spalding. Just a finger on your head. Quadri appesi nella mente, son frammenti di canzoni, e con vecchi nomi e facce riconosci le tue azioni. Quando il sogno poi svanisce, sai di essere perduto, like the circles that you find in the windmills of your mind. Bellissima questa versione dei Mulini dei Ricordi, brano scritto dal compositore Michel Legrand, con Chiara Civello in evidenza, accompagnata, affiancata anzi, dalla bellissima e bravissima Esperanza Spalding, per questo nuovo album intitolato Canzoni, prodotto da Nicola Conte, arrangiamenti in gran parte realizzati da Eomir Deodato, quindi un album internazionale molto ben concepito e registrato, al quale auguro un grandissimo successo, e sarà così anche perché hai firmato un contratto con la OK, che è una delle etichette di riferimento della Sony Music in questo momento, quindi in bocca al lupo Chiara per tutto il lavoro. Ma prima di chiudere quest'altra piccola parte del nostro soundcheck, volevo sapere se conosci questa giovane artista che stiamo ascoltando e apprezzando qui al nostro soundcheck, che si chiama Mayra Andragi. Sì, la conosco. Ecco, questo è il nuovo album per lei, si intitola Lovely Difficult, il brano è bellissimo e si intitola Tres Menino. Mayra Andragi al soundcheck di Radio 24. Na minha vida tem tres menino que vem mundo pra trazer alegria canto. Traquino bonito, valente, chuchante, tudo doutorado é tu maravilha. Primeiro cadu, depois dançarita e pra ficha conta bem Alexandrinho. E descobrimento de teu sentimento, de um amor tamanho que cadê igual. Nós vivemos sempre unidos, união sempre foi força. Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo in contatto con il soundcheck di Radio 24, nostra ospite, ormai lo sapete, state apprezzando questo nuovo album intitolato Canzoni, con Chiara Civello. Allora Chiara, adesso sei in Italia, stai seguendo la fase di promozione per la pubblicazione di Canzoni, e volevo sapere cosa ne pensi della musica italiana oggi. Tu frequenti New York, frequenti Rio de Janeiro, ascolti tanta musica, sei molto curiosa come donna e come artista, quindi ascoltando la radio italiana, che idea ti sei fatta della nostra musica oggi? Ma dunque, ho notato che comunque anche la radio italiana lascia non tantissimo spazio agli emergenti oppure ai non mainstream, che è una cosa che un po' mi dispiace, perché per esempio credo sia molto importante, poi qui ci riallacciamo a quello che ti avevo detto, che io sento che magari in Italia la musica non è proprio nella quotidianità dell'italiano, no? Nello stesso modo credo che i media in un certo senso lasciano magari meno spazio di quello che potrebbero lasciare alle cose nuove, c'è meno spirito dell'avventura di quello cui io sono abituata fuori. In Brasile l'ultimo disco MPB può ottenere un'esposizione, una visibilità sia radiofonica che live, per esempio, come negli Stati Uniti la stessa cosa, io l'ho vissuto sulla mia pelle, io un primo disco mi hanno dato grandi opportunità. Qui in Italia questo si vive a fatica, a meno che non entri in un talent, il che è un po' riduttivo, insomma, secondo me, a mio avviso. Eh sì, e poi nei talent ci entri soltanto se sei un giovane artista che deve firmare il primo contratto. La cosa è che l'Italia è anche un paese ricco di eccellenza, di grandi professionisti che la televisione la frequentano pochissimo proprio perché mancano programmi di riferimento. Io quello che sento è che il suono è un po' tutto uguale in giro, forse perché da noi sia le radio che le televisioni hanno ancora un'organizzazione generalista. Tutti suonano le stesse cose, tutti fanno le stesse cose. Invece negli Stati Uniti e credo anche in Brasile esistono molte più radio e TV tematiche anche per la musica. Certo, anche più senso dell'avventura, sperimentazioni sonore, si accoglie di più la novità, mentre invece in Italia si è sempre un po' vissuti a rimorchio dai leading markets, diciamo, no? Musicalmente. E avendo vissuto molto tempo fuori, ogni tanto quando torno sento questa cosa, ma questo non spegne assolutamente la mia scintilla né la mia fiamma di voler fare grandi cose in Italia, soprattutto in questo momento dove ci sono tante promesse di cambiamenti, di novità. E ce le auguriamo tutti. Certo, al momento. Allora, torniamo a gustare un'altra traccia di questo album, Canzoni con Chiara Civello. Il brano vede protagonista un altro grande maestro e autore della musica brasiliana, lo dicevamo prima, Chico Buarque de Holanda, che tu già conoscevi. Sì, lo conoscevo artisticamente sicuramente, personalmente l'ho conosciuto un paio d'anni fa. E Chico Buarque sappiamo che ha vissuto molto in Italia, è stato un grande amico di Sergio Bardotti e di Sergio Endrigo, quindi nel momento in cui gli ho proposto di cantare questa canzone lui ha adorato un po' questa la canzone Io che amo solo te, lui ha adorato questo arrangiamento molto puro, molto folk quasi, non melodrammatico, tipico un po' degli italiani, e ha accettato subito con entusiasmo, il che è stato molto bello, molto commovente. Ci sono anche dei video di questi duetti, sono commoventi, ogni volta che li vedo mi impressionano in un certo senso. Per ricordare un grande autore italiano, Sergio Endrigo, Io che amo solo te, la voce di Chiara Civello con Chico Buarque e Giolanda. Solo quel te, che resta della mia gioventù. Quel che resta solo te della mia gioventù, quel che resta della mia gioventù. Io che amo solo te, Sergio Endrigo scrisse questa canzone tantissimi anni fa e come vedi le belle canzoni poi tornano sempre a galla e lo ha fatto Chiara Civello, ha riportato in auge questa splendida melodia in questo album intitolato Canzoni, come dicevamo prodotto con Nicola Conte e qui con la partecipazione di Chico Buarque di Holanda. Ma a parte il tuo repertorio, la tua musica, il tuo suono interiore, che cosa ascolti quando sei a casa, cioè sei come dire al passo con i tempi, segui le nuove tendenze, soprattutto la nuova scena newyorkese che è molto interessante. Sì, sento di tutto. Di tutto, per esempio ieri sentivo, non so, Leo Ferré, oppure sentivo delle canzoni molto, molto antiche francesi, oppure sentivo delle cose dei contemporanei, dei miei amici di New York. Gregory Porter è un caro amico, io mi ricordo che ci incontrammo tanti anni fa, mi stava uscendo il primo disco, io entrai in un bar e lui cantava, allora io andai da lui e gli dissi, gli feci complimenti che mi piaceva moltissimo come cantava e lui mi chiese di cantare con lui perché io gli avevo detto che cantavo anch'io. Cantavo insieme Corcovado in questo bar a Williamsburg, mi ricordo. Da quel momento siamo rimasti amici, quando uscì il mio primo disco lui mi veniva a sentire sempre. Poi per esempio, ecco, Robert Glasper, ho fatto con lui un tour in Giappone, credo nel 2000, con lui, Mark Whitfield, Donald Edwards e Ruben Rogers e Robert Glasper. La cosa di Robert Glasper di cui non possono ricordarmi è che lui, a parte farmi ridere per 15 giorni di seguito, mi ha buttato vestita nella piscina dell'albergo dopo il concerto. Per festeggiare il grande successo ottenuto. Sì, no, per scherzare, perché era un continuo veramente teasing each other sempre. Robert Glasper, allora lo ascoltiamo subito, qui dall'ultimo lavoro Black Radio 2, adesso vedremo che cosa succederà ai prossimi Grammy Awards, perché con il primo Black Radio ha portato a casa il Grammy Award come Best R&B Album, e non è male per un musicista che viene dal jazz e dalla musica classica, quindi staremo a vedere con questa nuova esperienza. Anche lui ha incontrato eccellenti protagonisti della musica internazionale, fra questi anche Norah Jones in questo brano intitolato Let It Ride, un brano dove spicca la ritmica jungle proposta dal batterista Mark Kallenburg. Robert Glasper Experiment e Norah Jones al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Somebody told me get over it. It's like water under bridges that have all ready burn. They say it gets better, it gets easier. The memories start to fade, and sad songs that always play you start to hate. Do you remember the days we used to spend? Memory so strong it keeps me from moving on. If I could go back, I'd take our worst days. Even our worst days are better than loneliness. Somebody told me get over it. It's like water under bridges that have already burned. It's like water under bridges that have already burned. Days we used to spend, memory so strong it keeps me from moving on. If I could go back, I'd take our worst days. Even our worst days are better than loneliness. Somebody told me get over it. It's like water under bridges that have already burned. It's like water under bridges that have already burned. It's like water under bridges that have already burned. They say, it's like water under bridges that have already burned. Lo ha conosciuto in un bar a New York City. Anche Gregory Porter è una star di prima grandezza del jazz internazionale, e quindi Chiara Civello porta anche fortuna agli artisti. Mi sa che è così, eh? Grazie, grazie per il buon auspicio. Sì, forse sì, ma sono anche loro che portano fortuna a me. Ti dicevo, gli incontri sono fondamentali, molto più delle scuole, delle varie formazioni o dei diplomi. Gregory Porter lo abbiamo ascoltato in Water Under Bridges da Liquid Spirit, anche per lui album di successo firmato per la Blue Note, ma io vi consiglio di acquistare Canzoni di Chiara Civello, album nuovissimo per la OK, distribuzione Sony, in circolazione non più di 2 settimane fa è stato pubblicato il disco, che potrete scaricare facendo il download, quello a pagamento, quello legale, via iTunes, per portare anche in classifica Chiara Civello, perché te lo meriti. Farete il vinile? Sì, assolutamente. È anche una imposizione fantastica di Nicola, ovviamente Nicola Conte, che è il re dei vinili, e anche perché questa sonorità qui si presta totalmente al vinile, quindi presto lo comunicheremo. Poi me l'hai detto, avete registrato con apparecchiature analogiche vintage, quindi il vinile sposa bene quel tipo di sonorità. Certo, certo. Allora, siamo ai saluti, mia cara Chiara. Dove possiamo prendere informazioni sulla tua attività concertistica, le notizie sul disco, magari i testi e tutto il resto? Allora, c'è un sito che sta per essere lanciato, se non lo stanno facendo in questo momento adesso, il mio nuovo sito, che riflette comunque tutto il concept grafico del disco. Sicuramente i vari social media, vi posso dire che su Instagram io sono un po' più presente perché mi piace un sacco. E quindi Instagram, Twitter, vabbè, i soliti Facebook ufficiale, potete scrivere i vostri commenti, i vostri desideri e tutte le vostre belle cose, e vi risponderemo con grande piacere, e da lì comunicheremo anche i nostri prossimi live, eccetera. Ecco, io mi ricordo un paio di anni fa tu mi mandasti una cosa da vedere molto carina, realizzata proprio col telefonino, un video geniale secondo me. Adesso stai preparando qualcosa per lanciare Canzoni? Sì, ho 3 bellissimi video che verranno lanciati piano piano, sono dei 3 duetti, infatti questo non l'ho mai detto, te lo dico a te per la prima volta, e sono molto contenta. E poi ecco, di queste cose un po' innovative, tipo video self-made col telefonino, come feci con quella canzone a cui ti riferivi, che è Got to Go con Jesse Harris scritta. E per il momento no, ma non lo escludo, perché io sono sempre una specie di vulcanino in movimento, lavico. In attività. Allora, io ti saluto, ti ringrazio per essere stata con noi, ti auguro ancora successo con il nuovo disco, ma soprattutto nella vita, mi sembra la cosa più importante. Ti auguro di continuare a viaggiare, così poi quando torni ci racconti le tue bellissime esperienze. Ok, io ringrazio te, ringrazio tutti gli ascoltatori di Soundcheck e spero di rincontrarvi, rivedervi, riascoltarvi presto. Ti dispiace se non chiudo la puntata con un brano tratto da Canzoni, ma da un album di qualche anno fa? Il brano è uno dei miei preferiti, si intitola Mr. True Love. È un brano molto sentito, Mr. True Love, è di The Space Between, il secondo disco. Allora, noi ci risentiamo domani alle 15:30 con il Soundcheck. Grazie a Chiara Civello, a tutti voi, buona musica e buona serata da Gigi Telesforo. Mr. True Love, dancing and beaming on my blurry sky, you're like moon glow. And right by my window, you came to hide, Mr.